poter stare insieme e vivere dei tempi così di lode, adorazione. Lo faremo ancora, canteremo ancora, adoreremo ancora questa mattina, però io ho un messaggio per noi ed è molto speciale, molto bello, e voglio invitarti a prendere le note del messaggio di oggi. Potete trovarle sopra i bidoncini qui al lato, se ancora non l'hai preso, prendi le note del messaggio. Prendi una penna perché ci fa bene, carta e penna, prendere nota del messaggio che ascoltiamo, perché lo memorizziamo e l'assimiliamo meglio. E noi vogliamo assimilare la parola di Dio, amen? Amen. Almeno in tre siamo d'accordo. Vogliamo assimilare la parola di Dio? Amen. Amen, amen, amen. E non solo in tre, vogliamo tutti assimilare la parola di Dio, perché la parola di Dio è la nostra roccia, no? Noi siamo stabili sulla roccia che è Cristo Gesù, e stabili sulla roccia che è la sua parola per noi. Dove saremmo senza la sua parola? E io vorrei cominciare subito mostrandovi un'immagine, che è l'immagine che mi ha mandato Enza Marinelli, ed è simpatica perché dice, questo è un meme cristiano, dice quando tuo padre è pastore, e queste sono le facce dei figli del pastore, e comincia ad usare esempi della famiglia in ogni sua predica. In ogni sua predica. E queste erano le nostre facce quando eravamo piccoli, perché papà usava gli esempi in famiglia quando predicava, e presto sarà la faccia di Ioanna quando comincerà a capire che la sto citando in ogni predica. Vi prometto che anche questa mattina citerò Ioanna. Siete d'accordo? Siete contenti? Siete d'accordo con me? È bello poter prendere esempi pratici, e quindi Ioanna verrà nominata e sarà felice di questo. Per adesso che non capisce, poi quando crescerà forse sarà meno felice. Filippesi, ci troviamo in Filippesi 2, che è bello leggere consecutivamente la parola di Dio e analizzarla insieme, e oggi ci troviamo davanti a un passaggio biblico di quelli proprio massicci, che se vai a fare una ricerca su YouTube tu trovi teologi e teologi che parlano su questi versi, perché sono di una pesantezza dottrinale, di una pesantezza di significati, di valori, di tematiche enormi. Infatti non avremmo tempo per analizzare tutto ciò che questi versi dicono, però alcune cose le prenderemo e le faremo nostre. Leggiamo insieme Filippesi 2 dal versetto 12, dice così: perciò, e fate caso a queste parole, ok? Perciò ci collega a quanto è stato detto prima. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Amen. Lo rileggo. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. L'esortazione di Paolo, dell'apostolo Paolo qui ai Filippesi, è un'esortazione all'ubbidienza, è un'esortazione a qualcosa che a ubbidire, che non è una parolaccia. Ubbidire non è, puoi scriverlo nelle note, se vuoi puoi scrivere anche queste cose. Poi non mettere citazione pastore Mirko, però l'ubbidienza non è una parolaccia, non è una brutta parola. Ubbidire non è una brutta parola, non ci sta definendo quella che è una vita ristretta, una vita limitata, una vita schiacciata, perché molto spesso l'ubbidienza viene associato a questo, no? Ubbidire ai comandamenti di Dio, ubbidire alla legge di Dio, ubbidire alla volontà di Dio significa chiudersi sempre più in una vita ristretta, chiusa, limitata, confinata, e non c'è niente di più sbagliato e lontano dalla verità. Siete d'accordo con me? Ubbidienza è una bellissima parola nella parola di Dio. L'ubbidienza a Dio ci eleva a una condizione di vita superiore. E oggi utilizzerò tutti i mezzi per comunicarvi questi versi e quindi adopererò anche il mio talento da disegnatore. Perché Antonio mi ispira a fare questo, usa sempre la lavagna e quindi dovrei far disegnare a lui. Però ecco, se questa è la linea della nostra vita, no? E questi siamo noi, eh? Meglio? Facciamo Antonio, dai, ha sempre i capelli. Se questi siamo noi, l'ubbidienza ci eleva a una condizione di vita superiore, elevata, più alta. Questa è la condizione nostra in Cristo. I capelli sono gli stessi, le sembianze esteriori possono essere le stesse, ma la condizione spirituale, la condizione di animo, la condizione mentale, l'orientamento di vita, tutto ciò che abbiamo, l'autorità, viene elevata a una condizione superiore attraverso cosa? Attraverso l'ubbidienza. L'ubbidienza, ripeto, non è una brutta parola. Ubbidienza, la mettiamo qua. Vita elevata. È così. È così, è una vita elevata e questo non lo dico io, lo dice la parola stessa. L'obbedienza produce benedizione. Considerate quando Pietro incontra Gesù e viene richiesto a lui da parte di Gesù di utilizzare la sua barca. Gesù dice: fammi utilizzare la tua barca. E Pietro dice: sì, ok, va bene. Gesù si siede sulla barca, insegna le folle, una tecnica straordinaria per poter amplificare la sua voce in maniera naturale e parlare a migliaia di persone. E dopo che Pietro è stato lì, possiamo immaginare, no? Perché se io predico per 45 minuti, Gesù, che sapeva mantenere molto meglio di me l'attenzione, Dio incarnato, predicava e Pietro era lì che ascoltava e aspettava e si chiedeva quando riavrò la mia barca. E quando Gesù finisce, poi dice a Pietro: vai al largo e getta le tue reti. E Pietro dice: ma io ci ho provato per tutta la notte, eppure dice: alla tua voce, al tuo comando, io andrò e getterò le reti. Che cosa succede? Ve lo ricordate bene, no? Pesca miracolosa, al punto tale che le reti si rompono. C'è talmente tanto pesce che Pietro raccoglie che non ce la fa a reggere le reti, deve chiamare gli altri discepoli perché un miracolo straordinario è avvenuto, abbondanza di benedizione. Perché? Perché Pietro ha ubbidito, perché Pietro ha detto sì, perché Pietro non si è fermato a dire e a pensare: io sono il pescatore, tu sei un falegname, torna al tuo mestiere, io so fare meglio. Quante volte noi abbiamo questo approccio orgoglioso che ci porta a dire: io so cos'è meglio per la mia vita, io voglio fare di testa mia, e questo non produce benedizione, ma l'ubbidienza a Dio, anche quando è scomoda, anche quando i suoi comandamenti non hanno una logica, perché lui ci chiede di buttare le reti quando tu ci hai provato per tutta la notte e sai che per certo non pescherai nulla, ma al comando di Gesù rispondi, e lì si sblocca la benedizione. Quindi nelle vostre note potete scrivere sotto: l'ubbidienza a Dio produce prima di tutto benedizione. E lo trovate questo passo che ho citato, questa storia che ho citato in Luca 5, potete andarla a leggere. Oppure vi ricordate quando Gesù parla alle folle, a un certo punto una donna dice: beata la donna che ti ha portato in vita, beata la donna. E Gesù, sapete come risponde? Risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Beati piuttosto, dice Gesù, Beati piuttosto, ancora di più di Maria, che è stata obbediente e che mi ha messo alla luce ed è stato un mezzo di Dio di cui si è servita grandemente, beati piuttosto tutti coloro che adempiono e mettono in pratica la parola di Dio. Punto 2, l'obbedienza a Dio produce felicità. Io vi sto solo citando alcune cose che si trovano tra l'altro nel Nuovo Testamento, perché se andiamo nel Vecchio Testamento c'è un elenco infinito che ci parla di cosa produce l'obbedienza nella nostra vita. Però ecco, sicuramente la felicità, e ve lo leggo da Giacomo 1, che dice: chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Ascoltate ora, dice: egli sarà felice, egli sarà felice nel suo operare. L'ubbidienza alla parola di Dio, cioè non solo ascoltare la parola di Dio, perché Giacomo qui sta accusando il fatto che ci sono persone che ascoltano la parola di Dio, e noi possiamo tornare domenica dopo domenica e ascoltare la parola di Dio, ascoltare la parola di Dio, ma questo non produce un frutto nelle nostre vite, a meno che noi dell'ascoltare non facciamo quello che è successivamente estremamente necessario, cioè metterla in pratica durante la settimana. Questo messaggio ha efficacia nel momento in cui lo metterai in pratica domani, dopodomani, al lavoro, tra i colleghi, a scuola. La scuola è finita, meglio così, in spiaggia, dove ti trovi, se metti in pratica la parola di Dio, lì tu hai la possibilità di sbloccare felicità nella tua vita. Un altro verso, giusto per completare le note: benedizioni, felicità, e poi risposta alle preghiere. 1 Giovanni 3:22 dice: e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. 1 Giovanni 3:22, segnatelo. L'ubbidienza sblocca l'intervento di Dio nelle nostre vite, sblocca la risposta alle nostre richieste in preghiera. In altri termini, l'ubbidienza ci dà una vita elevata, più alta, più in intimità con Dio, e quindi Dio opera e benedice rispondendo alle preghiere di coloro che ubbidiscono. E poi c'è un elenco infinito, io ho messo solo 3 righe. Benedizione, felicità, risposta alle preghiere, ma potremmo parlare di protezione, potremmo parlare di guarigione, potremmo parlare di guida, potremmo parlare di sicurezza, potremmo parlare della pienezza di Dio in noi, perché lo Spirito Santo agisce e riempie coloro che vivono in ubbidienza, autorità spirituale, intimità con Dio che ho citato, e tante altre cose si sbloccano attraverso l'ubbidienza. Per questo è importante. E l'Apostolo Paolo dice: siete stati obbedienti, e ora, anche se sono assente, lo siete ancora di più, e io vi chiedo ancora: perseverate nell'obbedienza, adempite la vostra salvezza. E capiremo che cosa significa questo. Vedete, è una scala, è una scala quella dei Filippesi, ed è una scala nella maturità. Posso chiederti questa sera: stai continuando ad ubbidire a Dio, alla voce di Dio nella tua vita? Non a una voce remota passata che riguarda i tuoi ricordi e la tua conversione, ma la voce di Dio che si rinnova per te ogni giorno e ti dà nuove indicazioni, nuove istruzioni, talvolta scomode, ma che sbloccheranno benedizioni nel momento in cui tu le osservi. Sei arreso a Dio. Sapete, il titolo di questo messaggio originalmente era "Arresi a Dio", poi l'ho cambiato. Ho detto: io vorrei dare più senso e più ragione a questa obbedienza, e ho cambiato il titolo in "Vivere come Gesù", perché Gesù ha vissuto questo tipo di vita elevata quando si è abbassato e ha ubbidito. L'abbiamo letto nei versi passati, 2 domeniche fa, quando si è parlato dell'umiltà. Lì, in quei versi, c'è scritto proprio che Gesù ubbidì, e ubbidì fino alla morte, e non a una morte qualsiasi, a una morte di vecchiaia, no, ubbidì fino alla morte, e alla morte di croce. E vi ricordate che Gesù ha chiesto al Padre: se è possibile, che passi oltre me questo calice. E poi ha aggiunto, ma non la mia volontà. Quindi c'era una volontà che il Signore aveva nel Getsemani mentre stava soffrendo, e dice lì, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Perché? Perché Gesù sapeva che la volontà del Padre è sempre la condizione migliore. C'è la storia di un missionario che è andato in Sudan alla fine del 1800, si chiamava Gowan Walters, e questo Gowan Walters aveva una sorella. Tutti e due facevano parte di una famiglia in Canada, canadesi, e la sorella è stata chiamata in Cina, pensate, alla fine del 1800, e lui è stato chiamato in questa zona remota all'epoca dell'Africa, e Dio ha chiamato entrambi in missione. Questa donna, la loro mamma è rimasta in Canada, una donna di fede, una donna straordinaria che era in sostegno, in supporto a questi figli lontanissimi, fine 1800. Non c'era la possibilità di comunicare, non c'era la possibilità di aggiornarsi dello stato dei loro figli, e un giorno bussano alla porta di questa donna per comunicare che il figlio è morto. È morto in missione in Sudan per portare l'Evangelo a quel popolo. E sapete, quando un responsabile della missione è andato da lei per confortarla, per portarle quelli che erano i pochi beni che questo ragazzo aveva, e per pregare con lei, questa donna ha detto una frase che rimane storica e che fa un certo effetto poterla leggere e ascoltare. Questa donna ha detto: preferisco che mio figlio sia morto in Sudan e sia sacrificato per ascoltare la voce di Dio, che averlo qui a casa oggi in disobbedienza al nostro Signore. Questa donna aveva capito tutto. Non c'è condizione migliore per noi, per i nostri figli, per i figli dei nostri figli, se non essere al centro della volontà di Dio. Lo ripeto, non c'è condizione migliore per noi, per i nostri figli, per i figli dei nostri figli, se non quella di essere al centro della volontà di Dio e ubbidire alla sua voce. Siete d'accordo con me? Noi siamo una chiesa che vuole ubbidire, e questo termine io vorrei che lo riscattassimo, perché il Signore ci chiama a una vita elevata. È il motto della nostra chiesa, dice, un popolo di veri adoratori impegnato ad ubbidire, impegnato ad ubbidire. Noi siamo impegnati ad ubbidire, il nostro impegno è quello di ubbidire al grande comandamento e al grande mandato. Noi siamo una chiesa che è in azione, e l'azione della nostra chiesa è elevarsi alla statura di ubbidienza, di sottomissione nei confronti di colui che è il Signore, come ci è stato predicato domenica scorsa, perché non c'è una condizione migliore. C'è sofferenza, c'è sacrificio nell'ubbidienza, sì, c'è. Ma qualcuno giustamente ha detto che il prezzo dell'obbedienza non è niente rispetto al costo della disubbidienza. Lo ripeto, il prezzo dell'ubbidienza non è niente rispetto al costo della disubbidienza. E noi lo capiamo bene, io non dovrei continuare a parlare dell'ubbidienza, perché basta che osserviamo le nostre vite, è vero? Basta che ci guardiamo indietro alle scelte che abbiamo fatto per dire, qui ho ubbidito, io ho ubbidito a Dio. Qual è stato il risultato di quell'ubbidienza? E ti puoi guardare indietro, puoi pure anche osservare la vita di altri. Quando ubbidiscono a Dio, quando vedi una persona che ubbidisce a Dio, che è sottomessa a Dio ed è consecutivamente sempre più in obbedienza, sempre più sottomessa, e vedi il frutto della vita di quella persona rispetto a chi sceglie di non ubbidire, di essere in una condizione di ribellione, di credere meglio qual è la scelta migliore per la propria vita. La scelta migliore per la tua vita e la mia è ubbidire al Signore Gesù. Amen? A me piace, io amo come Gesù pone tutto questo, perché Gesù lo pone sotto un altro piano. non lo pone, io ho sbagliato nel porlo, sulle benedizioni, la felicità, la risposta alle nostre preghiere, perché è molto egoista come prospettiva, è vero, siete d'accordo con me, no? Stai lì a guardare che cosa hai in cambio dell'obbedienza, no? E invece Gesù la pone su un altro piano e dice queste parole testuali, Giovanni 14, 15, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. È molto semplice. Se ami il Signore, osservi i Suoi comandamenti. Punto. Amiamo Gesù? Questa è la domanda. Ami il Signore? Io lo amo. Io lo amo tanto. Ed è la condizione più bella che possiamo vivere. Essere in relazione col nostro Gesù, Signore e Salvatore. Io ti amo. E per questo osservo i tuoi comandamenti. Non devo avere sempre una ragione che mi spiega perché devo fare quello che mi chiedi di fare. Non è che sempre devi dimostrarmi che poi mi benedici ed effettivamente è valsa la pena. È tutto molto una proiezione egoistica. No, io ti amo e faccio quello che tu mi chiedi di fare. C'era un comico che diceva dimmi quello che devo fare e io lo faccio. Era così più o meno. Dimmi quello che devo fare e io lo faccio. E che condizione elevata è quella? Torniamo a Filippesi. Filippesi va avanti dicendo: mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente. E poi aggiunge: compite la vostra salvezza con timore e tremore. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ed è cattiva dottrina ed è sbagliato interpretare questo verso pensando che noi possiamo perdere la nostra salvezza o che la nostra salvezza dipende da noi, da quello che facciamo. Mettiamolo in chiaro, ok? Perché la Bibbia va compresa nel contesto più grande. E voglio farvi vedere un'immagine che vi rende un po' l'idea di che cos'è la parola di Dio, di come è fatta la Bibbia. Questa immagine mostra in ognuna delle stanghette che vedete qui sotto, ognuna di esse è un capitolo della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Infatti, vedete al centro c'è una stanghetta particolarmente lunga. Questo è Salmo 119. Vedete com'è lungo, come scende giù. E sapete che cosa sono tutti quei fasci luminosi che vedete? Quelle sono tutte le connessioni e tutte le referenze che si intrecciano tra di loro nella Bibbia. Vedete, dalla Genesi all'Apocalisse ci sono fasci di luce e di collegamenti tra capitoli in tutta la Bibbia e tutto si intreccia perfettamente. Quindi com'è che si interpreta la Bibbia? Beh, qualcuno ha detto giustamente: un verso fuori dal contesto può diventare un pretesto. Fa pure rima, no? E tu puoi far dire alla Bibbia tutto quello che vuoi. Puoi prendere questo verso, dovete avere timore, dovete avere tremore, dovete ubbidire, perché se no non sarete salvati e finirete all'inferno. Grazie a Dio non è così. E quindi comprendiamo meglio questo verso, perché lo stesso Apostolo Paolo dice in Efesini al capitolo 2, versetto 8, voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Non sei tu che puoi salvare te stesso e non sono io che posso salvare me stesso. Non è la mia obbedienza che mi salva, non è la tua obbedienza che ti salva, non è questo il mezzo attraverso il quale noi potremo ereditare la vita eterna, la vita con il Signore per l'eternità, ma come c'è scritto nelle nostre note, potete completare questa frase, l'obbedienza non è il mezzo per essere salvati, ma è il risultato della salvezza ottenuta. L'ubbidienza non è il mezzo per essere salvati, ma è il risultato della salvezza ottenuta. Se sei stato salvato per grazia in Cristo Gesù, non puoi fare a meno di amarlo e nell'amarlo ubbidire ai suoi comandamenti. Semplice, vero? Molto lineare. E questo l'Apostolo Paolo sta dicendo. Queste parole però, timore, tremore, no? danno una certa impressione, beh, perché l'Apostolo Paolo ci tiene a farci comprendere che il nostro percorso spirituale non può alla luce della grazia essere vissuto con una superficialità. Io sono salvato per grazia, tutto ha fatto Gesù, cammino per la mia vita, per la mia strada, come voglio, in ribellione, perché non cambia niente rispetto a prima. Invece, ottenuta la salvezza, tu seriamente, con timore, con tremore, con rispetto, con riverenza, riconoscendo chi è il tuo Signore, chi è il tuo padrone, ti sottometti a Lui per questo dono ricevuto. E qui viene la mia illustrazione su Ioanna. Ioanna c'è? Dov'è? Dietro. È tranquilla, sta dormendo. Ioanna è un dono di Dio, perché la parola di Dio dice che i figli sono un dono di Dio. È un dono che il Signore ha dato a me e a Giorgia e a tutti noi. Vero? Siamo d'accordo? Siete contenti di quello che sto dicendo? È così, è un dono, è un dono. È dato a noi però amministrare questo dono. È dato a noi farla crescere in educazione, prenderci cura di lei. E visto che è un dono così prezioso, viene automatico, viene così automatico alzarsi la notte quando piange, cambiarla, lavarla, essere premurosi quando vedi che soffre. E sei lì che accudisci tua figlia e non lo fai perché sei costretto a farlo, lo fai perché è prezioso il dono che hai ricevuto, è qualcosa di così unico, così speciale, così che qualcosa che ti riempie, no, il cuore. È vero, Aldo? Papà, collega, neo papà. È così, no? Ti riempie il cuore. È un dono ricevuto. E così è la grazia. È un dono che il Signore ci dà. Ma a noi sta a amministrarlo. Come amministri il dono della grazia nella tua vita? Il dono della salvezza per grazia che hai ricevuto. Lo amministri bene, rinunciando al peccato, facendo guerra al peccato, facendo guerra a ogni forma di disobbedienza o con superficialità, leggerezza. Sta a te questa scelta. Io voglio concludere facendovi notare due paroline in questi versi che ci danno la possibilità di comprendere bene come vivere questa vita elevata. Che cosa regge questa vita elevata in ubbidienza? Sono due paroline che nessuno di noi forse darebbe il peso che hanno. E ringrazio John Piper, il nostro teologo di riferimento lì negli Stati Uniti, che mi ha illuminato su questo, perché ci sono due paroline che fanno da pilastri a una vita in ubbidienza, a una vita elevata. Non so, nel frattempo potete leggere il verso, pensare, ripensare. Quali sono queste due paroline? Che cos'è che regge una vita in ubbidienza? Non è timore e tremore? Le due paroline qualcuno dice volere, è Lui che compie in noi il volere e l'operato. E non sono neanche quelle, sapete quali sono? Ve le scrivo. Le potete scrivere nei vostri appunti, ci sono due righe, due lineette. E sono le parole perciò. È la parola poiché. La prima parola, perciò, ci collega a tutto quello che abbiamo analizzato e visto nelle domeniche passate. Perciò ubbidite. Perciò cosa? Perché Gesù, Dio, si è abbassato, si è fatto uomo e poi si è fatto servo, è morto ed è morto di croce. E questo ci parla della sua salvezza, di quello che abbiamo già ottenuto ponendo fede nel nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Perciò, per quello che Lui ha già fatto in passato, noi possiamo vivere una vita elevata in ubbidienza, perché Lui ha pagato il prezzo, perché ora siamo nella grazia, perché Lui ha già fatto tutto quello che era da fare per darci la possibilità di vivere una relazione con Dio. E poi, poiché lo leggiamo insieme, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operato e l'operare per il suo beneplacito. È Lui che opera in noi il volere e l'operare. Tu puoi ubbidire a Dio perché è Lui che opera in te. Tu puoi ubbidire a Dio perché è Lui che ti anima. Tu puoi ubbidire a Dio e vivere questa vita elevata poiché è Lui che ti guida, è Lui che ti riempie, è Lui che fa cambiare il tuo volere e il tuo operato. Tu non vuoi più le cose passate, tu vuoi cose nuove, tu non vuoi vivere più nella ribellione, tu vuoi vivere per Dio. E sai cosa? Questi pensieri non vengono da te. Quando io ho cominciato ad avere il desiderio di servire il Signore, di vivere per la sua causa, pensavo che era la mia capacità di riscattarmi, di vivere una vita migliore. E poi ho dovuto constatare, alla luce della parola di Dio, che questi desideri, questi pensieri non vengono da noi. Il desiderio di combattere contro il peccato, non vivere nella fornicazione, non attingere dalla pornografia delle gioie, non vivere nel compromesso, non mentire, il desiderio di perdonare chiunque, di porgere l'altra guancia, di essere misericordiosi, il desiderio di evangelizzare, portare la parola di Dio fino all'estremità della terra, non sono desideri che partono dal nostro cuore, sono desideri che partono da Dio e che Lui mette dentro di noi. Perché è Lui che opera in noi il volere e l'operare. Anche l'operare, non solo il volere. È bello questo, no? Perché tu pensi, il Signore mi ispira a vivere una vita elevata, no? Al servizio suo. Ma anche l'operare, anche il mettere in pratica quelle stesse cose che Lui ispira a noi. È Lui. Capite perché? Una vita elevata non è il risultato di uno sforzo, no? Queste frecce non sono uno sforzo mentale dove tutti devo elevarmi, una vita migliore. No, è il frutto di pilastri presenti, forti, stabili nella tua vita. La consapevolezza della grazia, che sei un suo figlio, che Lui ha pagato il prezzo per te, che gli appartieni, che tu sei opera sua, destinato a fare le opere che Lui ha già precedentemente preparato affinché tu le compia. Questi sono pilastri che reggono la tua obbedienza, il pilastro di sapere che Lui stesso che opera in te il volere, quel volere anche anima in te l'operato. Perché? Perché dipendi da Dio e Lui ti dà una vita elevata. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Sapete, questi versi possono essere altrimenti traducibili in non vivere passivamente. L'ubbidienza, la vita elevata, non è qualcosa che ricevi passivamente, è qualcosa che richiede il tuo coinvolgimento. E io ti chiedo questa mattina, vuoi essere coinvolto in quello che è l'opera meravigliosa che Dio vuole compiere in te? Vuoi essere elevato perché Lui vuole elevarti, ma ha bisogno che tu scegli questa mattina, che scegli di rispondere, scegli di attivarti, scegli di rischiare. Cosa il Signore ti sta chiedendo di fare? Sapete, a volte ho a che fare con persone che dicono, io devo lasciare il servizio, credo che devo ridimensionare la mia vita, credo che devo dedicarmi a questo, a quest'altro. E questi discorsi per me hanno valore solo nel momento in cui quella persona so che si è fermata in preghiera e in digiuno e ha avuto chiare istruzioni da parte di Dio. E lì io mi sento tranquillo di dire: ferma tutto, fai quello che Dio ti ha detto, perché qualsiasi cosa Dio ti ha detto è la condizione migliore per te. Ma il mio rammarico è che a volte in quelle parole leggo persone che ancora hanno la loro vita nelle proprie mani. Le redini della propria vita ce l'hanno nelle mani e vogliono equilibrare loro ogni cosa. E quindi scelgo di servire se me la sento, se ce la faccio nella mia volontà, nella mia propensione, servire la Chiesa, fare qualcosa per altri. Sì, lo faccio se ce la faccio, perché stai ragionando con i tuoi pensieri. Io ti chiedo questa mattina: non ragionare con i tuoi pensieri. Smettila di ragionare con i tuoi pensieri. Comincia a ragionare con i pensieri che Dio ha per te. Perché se Lui ti chiama a fare qualcosa, tu puoi farla. Qualsiasi cosa Dio ci chiede di fare, possiamo farlo. L'unica cosa che è importante è sapere che Lui ce la sta chiedendo di fare. Sapete, la parola obbedienza, qui in greco, in questi versi proprio che abbiamo letto, se andate a cercare il significato, è duplice. È sì, obbedire, quindi sottomettersi a dei comandi e rispondere alla signoria, all'autorità di qualcuno che ti impone a compierli, ma è anche ascoltare. Non è bellissima questa cosa? Perché l'ubbidienza è ascolto. Tu non puoi ubbidire se non sei in ascolto. Tu puoi solo ubbidire quando sei in ascolto. E io ti chiedo questa mattina: mettiti in ascolto nei confronti di Dio. Chiedi a Lui: che cosa devo fare? Cosa vuoi tu che io faccia? Cosa vuoi tu che io lasci? Cosa vuoi che io prenda? Cosa vuoi tu che io scelga per me e per la mia famiglia? E se ascolti, ricevi istruzioni. È nel momento in cui ricevi istruzioni e vai nella strada dell'indicazione che il Signore ti dà, si sbloccano benedizioni. È una vita elevata. Io non voglio che nessuno di noi rimanga qua. Questo è un tempo di preghiera. Questo, ora, è un tempo di preghiera dove noi decidiamo di elevare la nostra vita. Sei con me? Quanti vogliono farlo? Quanti vogliono dire: io voglio pregare per la mia vita affinché sia elevata? Oggi, e tutti ne abbiamo bisogno. Ti chiedo di alzare tutte e due le mani. Vogliamo pregare insieme al Signore. Signore, sei Tu che parli questa mattina. È la Tua parola che ascoltiamo. E noi ci mettiamo in gioco. Io ti ringrazio perché faccio parte di una chiesa meravigliosa, di una famiglia che si mette in gioco, che è impegnata a ubbidire. Noi vogliamo ascoltare la Tua voce e vogliamo andare nella direzione che Tu ci indichi. Vogliamo smetterla di avere le nostre vite nelle nostre mani, con noi che le guidiamo, perché non c'è nulla di buono in questo, c'è solo un appiattimento e una vita ristretta. Vogliamo elevarci a quei piani che Tu hai per noi, vogliamo elevarci a quelle possibilità che Tu hai stabilito per noi, vogliamo elevarci a quella condizione di vita che fa la differenza. Vogliamo obbedirti, Signore. E qui noi preghiamo perdono per tutte le volte che non abbiamo ascoltato la Tua voce, quando ci chiedevi di dare, quando ci chiedevi di fare, quando ci chiedevi di andare. Perdonaci, Signore Gesù, perdonaci. Perdona me per primo e poi noi altri, perché siamo tutti mancanti in questo, ma grazie, perché la Tua grazia ci regge, quella colonna sicura che noi vogliamo prendere, far nostra e scalare, Signore Gesù, per grazia. Noi non siamo sotto condanna e sotto giudizio, ma abbiamo sempre l'opportunità di riscatto e di essere elevati alla piena condizione di benedizione che Tu hai per noi. Perdonaci, dacci un nuovo inizio a partire da questo momento. Parla a ciascuno di noi, Signore Gesù. Siamo in ascolto. Indicaci la via, Signore. Vorrei pregare anche perché sento nel mio cuore che lo Spirito Santo mi invita a questo, per chi ha un volere che non è accompagnato da un operare. Ha il volere di lasciare determinate cose, ma non è accompagnato da un operare, non riesce a farlo. Ma io ho una buona notizia per te: lo stesso Dio che ha messo in te il volere vuole creare in te l'opportunità di operare. Colui che vuole bloccare la maledizione che c'è nel peccato e nella dipendenza che vivi, è lo stesso Dio che ti eleva a una condizione di libertà dove le catene vengono rotte e tu puoi camminare libero. Lo stesso Dio che ha messo in te il desiderio è lo stesso Dio che vuole agire in te per darti la forza di compierlo. Io prego, Spirito Santo, riempi di forza, come è scritto nella tua parola, Padre, rafforza l'uomo interiore, rafforza l'uomo interiore, che il volere sia accompagnato e unito all'operare. Gesù. Amen. Rimaniamo ancora alla presenza di Dio. Rimani in ascolto con lo Spirito Santo. Chiedi a Lui, Signore, cosa vuoi che io faccia? Lui vuole parlarti, vuole parlare ancora. Mentre adoriamo, mentre stiamo alla Sua presenza, interroga lo Spirito Santo. Lui ti darà indicazioni, ne sono certo.